Ehi, oh, sono le 8. Quasi 8:01. TBR. Pane, burro e rock and roll. Puntata 184. La tua colazione rock. La migliore in circolazione. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Venerdì 15 febbraio 2008, l'anno della svolta. Una buona giornata da parte dell'Ariele anche agli amici e le amiche che sintonizzano la loro frequenza radiofonica nella seconda ora. Ciao, benvenuti. Il saluto mio di Spadino, di Freak, di Isaac Rizzi, della redazione, di Mister Trombetta. Puntata intensa quella di quest'oggi, nella seconda parte della seconda ora. Ti piace quando divido così le puntate, Spadino? Nell'ultimo blocco di quest'oggi avremo in super anteprima, e le altre radio ancora non ce l'hanno per adesso, il primo brano musicale suonato interamente dalla redazione di Pane, Burro e Rock and Roll con la bocca. Partiamo dagli AC/DC, quindi quest'oggi ascolteremo gli AC/DC con la bocca nell'ultima mezz'ora. Se non riuscite a sentirla, vi ricordo che lo potete trovare già oggi a pranzo, facciamo, quando Isaac Rizzi lo fa, sul nostro spazio myspace.com/paneburrofm, dove fino a oggi ci trovavate anche Zorro, che le Starway to Heaven col Casù, va bene, oppure radiorockfm.com in streaming, ci trovate tutta la puntata. In questa mezz'ora che andiamo ad affrontare, sicuramente annuncio un ospite. Non capitano spesso gli ospiti a quest'ora della giornata, ma quest'oggi vi presentiamo un libro, basterà trovarci Steve. E poi abbiamo, ragazzi, abbiamo la seconda parte del corso per far trasformare Ariel e Fricantoni in esseri umani capaci di parlare con un brand manager, perché si avvicina l'appuntamento con una nota ditta di Chinotto italiano che si è resa disponibile a una sponsorizzazione di Pane, Burro e Rock and Roll. Vedremo se anche quest'oggi ce la faremo. Ma ovviamente, come di consueto, iniziamo la seconda ora con il brano consigliatoci da Mox Cristadoro dalla redazione di Easy Rider. Quest'oggi ci tuffiamo nel 1977. Sono gli Shadows. Ehi, cowboy là fuori, ce lo vogliamo affrontare questo venerdì 15 di febbraio? Viene la voce di Remo Rebotti. L'ospite che passa a trovarci tra poco, è per questo che c'è in testa Remo Remotti. Ehi, Ariel, il sesso inizia a 80 anni. Mi ha fatto venire tornare in mente Remo Remotti, va bene. Tra l'altro lo programmiamo anche oggi. Scusa, se non sapete chi è Remo Remotti lo scoprirete tra poco. ragazzi, il sesso inizia a 80 anni. Allora, va bene, gli Shadows, grazie a Mox. Solo un attimo prima di mandare il contributo per trasformare Ariel Freak in perfetti uomini da marketing. Ieri nella puntata trasversalmente dedicata a San Valentino avevo letto qualche messaggio e ce n'era uno che mi aveva colpito e che avevo letto, era di Fabio. Ne ricevo un altro stamane. Ciao, sono Roberta da Livorno. Io sono la fidanzata di Fabio, quello che ieri ha scritto: forza ragazzi, che stasera le scoppiamo tutte. Io sono Roberta da Livorno, la sua fidanzata, quello che lui è quello che ieri mi doveva scoppiare. Invece è da ieri sera che ha letto con la febbre a 38. Ciao, un saluto. Mi piace perché il cerchio si chiude, capito? Grazie Roberta della testimonianza e un saluto a Fabietto, dai, ripigliati. Collegamento con il nostro Camonchi, il nostro manager di riferimento. Ariel e Freak ce la faranno? Un chilotto ogni due ore. Mancano pochi giorni all'appuntamento con una nota ditta di chinotto italiano. Caro Freak, dobbiamo vendere pane, burro e rock and roll. Lo dica a me, lo dica a me. Sta facendo il countdown, il conto alla rovescia. Sono emozionato, sono imbarazzato. Ma noi arriveremo preparati, caro Freak. Dobbiamo prepararci. E ci prepara Camonchia, noto manager. Il famoso manager dell'underground italiano, un uomo che sa come vendere. Mi stanno cercando anche in ufficio perché mi sto preparando a casa tutte le varie lezioni per insegnarvi. Mi stanno cercando, tra l'altro, dall'ufficio. Allora, sì, l'altro oggi giorno comincerei. Sì, con cosa? Io oggi comincerei con... La stanno cercando anche dalla questura. Battutina! Stavo scherzando, Non si offenda, non si offenda. Possiamo fare una battuta così all'appuntamento? Sì, sempre a metà. Prima dello scaccolamento e dopo la patacca. Quindi ricordi, funziona... La scaccola soltanto e la patoia su. Ho capito. Questo. Quindi... E battutina in mezzo. La battutina mette di buon umore, mette a proprio agio, insomma. È il passaggio tra lei e il voi. Ah, certo. Okay, che avevamo già affrontato l'altro giorno. Ma ci dia l'insegnamento di quest'oggi per una riunione vincente con un brand manager. Beh, innanzitutto direi che nella favola del marketing sì. Bisogna cominciare a parlare del prodotto. Il marketing suddivide in 4P o 4 punti principali. Le famose 4P. Le famose 4P. Le 4 puttanate. No, stavo provando, mi sto preparando. Io stavo provando a farlo spiritoso per allenarmi all'appuntamento. La prima P da affrontare è il prodotto. La prima P è il prodotto. Prodotto. Il prodotto. Che cosa il loro abbiamo nostro. Davanti? Prima loro. Perché noi in pratica dobbiamo studiare quello che andiamo a conquistare, cioè il prodotto. Cos'è il prodotto? È un chinotto gasato. Ok, ma cos'è il chinotto? È una lattina, quindi parliamo di beverage in questo caso. Sì. Parliamo del mondo del beverage. Esatto. Parliamo di un prodotto di consumo di massa. Certo. Parliamo di il preferito da Freak, diglielo, come glielo diresti. Vero, vero. Noi abbiamo uno slogan al riguardo, se mi posso giocare subito l'asso, dottor Camonchia. Mi dica. L'asso è questo: il chinotto, la risposta italiana alla Coca-Cola. Vincente. Le piace? Mi sembra un po' Italia 90, ma ci sta. Vero, un po'... Porca miseria, troppo non critico. Mi offenda così. Troppo critico questo dottor Camonchi. Vedrai che ce ne viene in mente un altro in questo momento. Va bene, allora ci pensiamo. Prodotto. Trovare uno slogan. Esatto. No, anche perché poi, vi ricordo, oltre i soldi, noi dobbiamo portare a casa il claim prossimo. Claim. Freak, come sta claim? Io a claim sto messo un po' malino, credo. Cos'è un claim, Camonchia, la prego? Ma direi che attualmente i ragazzi di questa azienda hanno bevi fuori dal coro e noi mi sembra che ci siamo tutti. Noi siamo qua fuori dentro. Dal coro. Quindi, sì, infatti, noi ci siamo. Però ci siamo dentro. Potremmo proporre qualcosa di nuovo per il prossimo millennio. Nel senso che. Un chinotto ogni due ore? È un gran viaggio da signore. È fatta. Direi che possiamo anche lasciare i soldi e prendere solo il claim. Esatto, oppure. Un chinotto ogni due ore ti toglie il malumore. Fantastico, perché è andata. Io la sento vicina, grazie Camonchio. Un chinotto ogni due ore è un gran viaggio da signore. Un chinotto ogni due ore fa passare il malumore. in store. Love is the drug and I need to score. Showing up, showing up, hit them run. Boy meets girl where the beat goes on. Stitched up tight, can't shake free. Love is the drug, got a hook on me. Oh, catch that buzz. Love is the drug I'm thinking of. Ovviamente annunciato un ospite nell'appuntamento di oggi a Pane, Burro e Rock and Roll, un libro che vogliamo presentarvi. Ne approfittiamo il nome del libro, però l'ho cambiato perché non si capiva bene cosa volesse dire. Buongiorno Steve, il mio nuovo nome, perché dopo Mike mi vuoi chiamare Steve. Sono molto contento, mi sembra di essere a Milano a Rock FM, non capisco come mai. Sarà difficile, sei a Milano a Rock FM. Ah, pensavo fosse la colazione che mi faccio, me stavo lo scrivo dicendo, allora. Volevo dire, ne approfittiamo del post San Valentino per proporre ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici un libro d'amore. Ma non è un libro, è un libero, cioè lui vuole, va dove vuole, però il fatto che vada lì a trovare le donne, questo mi fa molto piacere. Ha una copertina rosa, non a caso, come te, anche tutte le altre, coniglio editore di Steve. Esattamente, i radioascoltatori ovviamente crederanno che stiamo scherzando, che stiamo dicendo stupidate, come facciamo sempre, invece è vero, il libro c'è. Anche gli ascoltatori ci sono. Come sembra te, che stiamo anche scherzando. Tutte le altre di Steve... Coniglio editore. Coniglio editore, saluto i conigli che ci stanno ascoltando. 5 euro, costa anche poco. 5 euro, come dice Remo Remotti, una miseria, perché questo è un libro appunto che non ha prezzo, infatti noi abbiamo messo un prezzo così solo per pagare la pagina 64. Di Remo Remotti volevo parlare dopo, perché tu hai anche a che fare con questo losco personaggio. Parliamo dello Steve scrittore. Steve scrittore, oltre a fare la musica per sbaglio, mi dissero, puoi smettere di fare la musica per piacere? Allora ho scritto, ora mi diranno, smetti per piacere di scrivere. La prossima volta avrò che presentare la mia linea di acchiappatoi, che sono quelli che piacciono alle donne, sì. Tu te lo metti e le acchiappi istantaneamente. Facciamo capire ai nostri radioascoltatori di che tratta, come te, anche tutte le altre. Tratta mi piace di perché donne. Tratta perché mi piace come parola, perché finisce con la A, per cui è qualcosa di femminile, la primavera, l'estate, la musica, la pizza, la Nutella, la pasta, aglio, olio e peperoncino, la bellezza, la maternità, la felicità, l'adrenalina, la scrittura, la lettura, la cultura, la curiosità, la libertà di pensiero, la libertà di espressione, l'arte. l'amicizia, l'eleganza, la soddisfazione, la simpatia, la notte, sono tutte donne che amo. In fondo anche la vita è una donna, questa è la verità, e la verità sta in mezzo alle gambe, è un po' questo. Questa è la tutto dedica, il concetto base di tutto il libro. Di come te, anche tutte le altre. Sì, dedicato a te fra l'altro, per cui cara Rosy de Tariel, dovresti essere molto felice. Grazie. Questa era l'introduzione, a come te anche tutte le altre hai un brano, vedo che sei, ti sei segnato. In realtà come te anche tutte le altre è il libro, sì. All'interno c'è il titolo che è lunghissimo, oh. Questo ci tengo molto a dirlo. Poi tra l'altro lo ridico, questo libro contiene la pagina 64. C'è? Infatti nella prossima edizione scriveremo in copertina contiene non c'è la 64, pagina fratello, arriva a 63. Ma questa è l'edizione quella che costa meno, quella che costa meno. Ho capito. Però esce anche la pagina 64. Ti pregherei da sola. Di darci un estratto di come te anche tutte le altre. Io lo do ma poi ridatemelo perché è la pagina 52 che va a ruba, Steve, ne ho vendute tante della Steve pagina 52. In diretta a Rock FM legge il suo libro come te anche tutte le altre. Ecco, per piacere mettete della musica in soprafondo che non si sente perché noi siamo sotto. Spadino, mettigliela. Amare è un crimine, dovrebbero dirlo anche al telegiornale, i giornalisti dovrebbero smettere di scrivere cazzate, dovrebbero scrivere l'amore è un crimine, scriverlo in prima pagina. Gli scrittori italiani ed esteri dovrebbero intitolare tutti i libri l'amore è un crimine, anche io dovrei farlo, magari il prossimo libro si chiamerà l'amore è un crimine, dovrei tatuarmi questa frase sul braccio, dovrebbero scriverla sugli sportelli delle smart, dovrebbero fare la pubblicità a questo slogan, pubblicità progresso. Questi stupidi preti bigotti dovrebbero dirlo durante la messa. Gli Hare Krishna sono intelligenti e possono evitare di dirlo, ma i preti e le suore no. Anche i cantanti dovrebbero fare degli album intitolati L'amore è un crimine. Ed ecco a voi il nuovo singolo di Max Pezzali, dal suo potente nuovo album intitolato L'amore è un crimine. Al numero 2 della nostra classifica troviamo Prince con il suo eclatante nuovo pezzo intitolato Love is a Crime. Dovrebbero scriverlo anche sui treni, sui bus, sugli aerei, sulle barche. Dovrebbero scriverlo sulla vela della Luna Rossa. Dovrebbero scriverlo sulle etichette dei profumi francesi. L'amour est un crime. Aspetta, questo si taglia, Spadino, grazie per il piacere perché. Vai, tranquillo. L'amour. L'amour è. Posso dirlo io in francese? Ti posso prego. Dirlo io in francese? L'amour est un crime. Eau de toilette. Scriverlo sulle confezioni dei dolci tedeschi, scriverlo sui muri delle metropolitane, sui muri delle città, sui muri mentali delle ignoranze. L'amore è un crimine, io ho cercato di dirlo ad Anastasia. Anastasia è alta, è magra, è bionda, è intelligente, è bella e ha due tette grosse come due Titanic e un culo scolpito nella perfezione, ma è sordomuta. A tra poco, con Steve. E me ne andavo da quella Roma addormentata, da quella Roma puttanona, borghese, fascistoide. Quella Roma del volemo sebbene andiamo avanti, quella Roma delle pizzerie, delle latterie, dei sali e tabacchi, degli erbaggi e frutta. Quella Roma dei mostaccioli e caramelle, dei supplì, dei lupini, dei maritozzi con la panna, senza panna, delle mosciarelle. Me ne andavo da quella Roma dei pizzicaroli, dei portieri, dei casini, delle approssimazioni, degli imbrogli, degli appuntamenti ai quali non saremo mai puntuali, dei pagamenti che non vengono effettuati. Quella Roma dei funzionari di ministeri, degli impiegati, dei bancari, quella Roma dove le domande erano sempre già chiuse, dove ci voleva una raccomandazione. Me ne andavo da quella Roma dei pisciatoi, dei Vespasiani, delle fontanelle, degli ex voto. Quella Roma della circolare destra, circolare sinistra, delle mille chiese, delle cattedrali dentro le mura, fuori le mura. Quella Roma delle suore, dei frati, dei preti, dei gatti. Me ne andavo da quella Roma con gli attici, con la vista. La Roma di piazza Bologna, di via Veneto, di via Gregoriana. Quella d'Annunziana, quella imperiale, quella di giorno, quella di notte, quella turistica. Quella Roma dell'orchestrina, piazza Esedro, la Roma di propaganda fide, la Roma fascista di Piacentino. Me ne andavo da quella Roma che ci invidiano tutti, la Roma Caput Mundi del Colosseo, dei fori imperiali, di piazza Venezia, dell'altare della patria. Quella Roma sempre col sole, estate, inverno, quella Roma che è meglio di Milano. Me ne andavo da quella Roma dove la gente pisciava per le strade, quella Roma fedente, impiegatizia, dei mezzi liti, della coda alla vaccinara. Quella Roma dei ricchi bottegai, degli Annetti, di Gucci, di Ventrella, di Burger, di Sciosta, di Carmignani, d'Avegna. Quella Roma dove non c'è lavoro, dove non c'è la lira, quella Roma del cuore di Roma. Me ne andavo da quella Roma della Banca Commerciale Italiana, del Monte di Pietà, di Piazza Navona, di Campo dei Fiori. quella Roma che c'è la sigaretta, presta 300 lire, quella Roma del CONI, del concorso ippico, del foro che portava e porta ancora il nome di Mussolini, me ne andavo da quella Roma di merda, mamma Roma, addio! Ospite speciale della puntata di oggi di Pane, Burro e Rock and Roll. Che belle parole, le scrivo tutte io. Tra l'altro il pubblico può richiedere. Stiamo belle cercando parole. Di convincervi a comprare Come te anche tutte le altre, oppure a farvelo regalare da Steve, che trovate, che ne so, in internet steve.it, oppure sì, sul suo spazio myspace.com. Parola di vongola. Esatto, Steve scritto STIV, perché esatto, all'inizio facevo le serate e mi chiamavo Steve, la gente non sapeva come si scrivesse, allora ho detto mi chiamo Steve furbo, ora invece scrivono Steve in maniera consona. Recito dalla quarta di copertina: Steve è un genio, è una belva, è un felino, si agita nella giungla della poesia e della letteratura come un puma affamato di carni femminili e di gloria. Lo scrive Remo Remotti. Remo Remotti, io vorrei chiamarlo Ramo Ramotti, perché lui è l'albero maestro con la radice quadrata e con quei rami io cerco di andare fino a Como. Quando facevo il programma di pomeriggio Frigidero ho avuto il piacere di intervistare, sì, Remo Remotti. Non so in quanti all'ascolto in questo momento conoscono le imprese musicali e poetiche di Remo Remotti, ma mi piacerebbe fargli venire voglia di andare a scoprire, anche non dovessero conoscerlo, chi è Remo Remotti. Sento un odore nell'aria, c'è stato, è tutto molto confermato. È stato qui in questo studio qui. Ma Remo Remotti è semplicemente Remo Remotti, quindi dovete andare. È un signorotto romano. È qualcosa di più, mi piace Remo che è tutto, è qualcosa di più, è il pittore di se stesso, è il poeta di se stesso. Mi piace che non c'è un Remo Remotti sul palco, ma c'è un Remo Remotti a prescindere. E tu giri con Remo Remotti? Io giro, andiamo e faccio le basi per un futuro migliore, perché lui ha iniziato ora, lui ribadisce sempre questo concetto, sì, che il sesso comincia a 80 anni. Regaliamo la barba di Remo, tra l'altro, ai primi che chiamano un giorno fa. Io non oso immaginare a vedervi insieme. È un problema, infatti c'è una volta uscimmo io e Remo e Lupo Alberto si scandalizzò, pensa te che livelli, anche Walter Disney, un grande, sì, mio amico, Walter, che lavorava qui a Radio Rock FM. Una volta. C'era una volta, infatti, inventò, sì, quella frase lì che poi è andata a Ruban. Caro Steve, è stato un piacere, come te anche Bugiardo, tutte le altre, nelle migliori e peggiori librerie. Sì, anche all'interno delle librerie. Per forza. È bellissimo che con il libro mi arrivano molte domande anche via mail. Sì. Ma il libro dove si trova? In libreria, no? Alla prossima, grazie. Scrivetelo. Spadino, grazie. sale la tensione quando si avvicina il momento del test attitudinale. Sei o non sei un vero rock? Sale la tensione, sale. Come si fa a sapere se sei un vero rocker, freak? Ma si risponde al test attitudinale. Ma come mi appare un vero rocker? Non lo so, con il chiodo, col il famoso chiodo, giubbotto, certo, oppure, in pelle, oppure con i calzoni in pelle nera. Bravo, ancora. Ancora, vediamo un po', con gli stivaletti. Anche, un bel biker mi sta facendo lei. Sì, oppure, è vero. Altri segni oppure, riconoscibili. Oppure. Tatuaggio. Con un tatuaggio, oh. Esatto, il tatuaggio oppure, è indispensabile. Piercing dappertutto. Oppure piercing dappertutto, oppure una bella chitarra al collo. Ma la cosa fondamentale del vero rocker, sa cos'è? Me lo dica, la prego! Il capello lungo. Questo è il titolo del test attitudinale. Il capello lungo, che negli anni 60 e 70 era simbolo di rivoluzione. E la domanda è una curiosità, quest'oggi legata per l'appunto alla lunghezza dei capelli di un vero rocker. Quanto misurano i capelli di Oh Setoh, un guaritore tribale della Thailandia che è entrato nel Guinness dei primati per essere l'uomo con i capelli più lunghi al mondo? Ipotesi A, 2 metri e 15 di capelli, complimenti. Oppure ipotesi B, seconda risposta, seconda opzione, 5 metri e 15 centimetri. Sempre di capelli, complimenti. Oppure sempre di capelli, ipotesi terza, 12 metri e 15 centimetri. Quanto sono lunghi i capelli di Oh Setoh, Guinness dei primati per i capelli più lunghi del mondo? Risposta A, B o C. La soluzione, come al solito, ve la diamo dopo. Tra poco. La risposta esatta? A dopo. Poco dopo. A fra poco. C'è sintonia. Poco dopo, a fra poco. C'è veramente sintonia fra di noi.